Yeah. You're listening to Redneck. Ehi. Ero abituato a stare solo, anche quando c'era qualcuno attorno, testa a testa con me stesso. Qualcuno deve uscirne morto, insulti su insulti ogni giorno. La cosa bella è che pensano che mi tocchino. Non sai chi sono e da quanto mi conosco. Ho tenuto il vero me nascosto, perché lui è il vero mostro, ora te lo dimostro. Ho visto madri non potersi permettersi la merenda per i figli, scappano come conigli non appena glielo dici. La scuola questo no te lo dice, pensi che sei lo Stato ma lo Stato è un bitch. Una cosa sola è vera, che la verità vince. Prof, perdonami ma non era per me la scuola. Troppo menzogne nascoste tipo i pianti degli alunni sotto le lenzuola, perché vedono i propri genitori in rivolta. Lavorano notte e giorno senza sorta, questi ragazzi che vogliono la situa capovolta. Devono capire che non serve una banconota per una rivolta. I carabinieri, guai a chi li tocca. 20 diversi tipi di forza armata, ma questi là del Roma, chi li blocca? Gesù del pane a chi non ha nei denti, c'è chi ce l'ha di oro e chi ruba. Ma unisce i segmenti, lo fanno per campare, quindi compare, perché qualche banconota non compare. La felicità non si può comprare, però dammi money e la tristezza scompare. Ah! Non dare retta a nessuno e neanche ai più grandi, ti metteranno sotto quando incomincerai a sfruttare i guadagni. Ehi.